Van Lon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutti, da Olga e Frey. Bentornati su Radio Città Fucico, bentornati su Van Lon, la vostra mezz'ora di storia in cui vi intratteniamo dopo che i ragazzi e le ragazze di Il Polpo di Stato ci hanno deliziato con la loro oretta di meme. Cambiamo decisamente discorso rispetto ai nostri vicini di programma. E come sapete, Van Lon è il vostro programma di storia. E questa volta parliamo di attualità. Di vera attualità, che però con la storia c'entra molto. Sicuramente avrete sentito questa notizia di qualche giorno fa, precisamente del 19 settembre, quindi sono passate un po' di settimane, ma ce la ricordiamo molto bene. La notizia è che il Parlamento europeo ha deliberato una risoluzione sulla storia, una risoluzione che si chiama, e cito testualmente, risoluzione sull'importanza della memoria europea per il futuro. Voi direte, no Frey? Bene! Esatto, ma come spesso capita, mi verrebbe da dire, passatemi un po' la malizia, con le decisioni dell'Unione Europea l'apparenza spesso inganna. Perché... Ecco, sì, noi abbiamo letto il titolo di questa risoluzione, abbiamo detto evviva, siamo molto solidali con il Parlamento Europeo perché finalmente fa pone l'accento sulla necessità della memoria in Europa. Poi però c'è venuto un dubbio, come diceva Frey, forse le cose non sono esattamente così, e siamo andati a leggere tutti gli articoli, sono circa una ventina che chiaramente non vi leggeremo, sulla risoluzione, e ci è balzata proprio la mosca al naso, come si suol dire, perché tra le tante dai tanti articoli ce n'è uno in particolare che dice che visto che la Seconda Guerra Mondiale è stata scatenata da quello che è il patto Molotov-Ribbentrop, che è il patto di non aggressione tra Germania nazista e URSS, che appunto diceva in cui ci si spartiva sostanzialmente sulla carta l'Europa, questa è stata appunto la causa della Seconda Guerra Mondiale, quindi nazismo e comunismo sono uguali. Sì, esatto, nella loro corresponsabilità nell'aver scatenato la Seconda Guerra Mondiale si parificano, aggiungiamo noi, ed è qui iniziamo a entrare nel punto del discorso, si parificano anche in quanto due totalitarismi. Naturalmente questo è un discorso piuttosto noto, che ormai ha fatto storia anche questo, e ai noi ha fatto veramente scuola. Noi cerchiamo di entrare all'interno di questa discussione, perché in realtà è una discussione che deve essere avviata, malgrado la risoluzione sia passata a larghissima maggioranza. Cioè, ci sono stati solo 66 voti contrari, direi una sessantina di astenuti. Sì, forse perché mancavano all'appello. Vediamo. Sicuramente possiamo registrare l'opposizione, qui lì ve lo segnaleremo, l'opposizione del partito della sinistra europea, di settori dei Verdi, e compattamente però la sinistra europea si è dichiarata contraria, si sono dichiarati contrari anche i nostri simpatici amici dell'iniziativa dei partiti comunisti operai rappresentati dal Partito Comunista Greco, ecco, che sicuramente non incidono, però il dato veramente significativo è che la risoluzione sia passata con l'appoggio del Partito Popolare Europeo, ed è questo uno dei punti in cui entreremo, dei vari schieramenti a cui afferiscono la Lega e il Movimento 5 Stelle, ma anche l'alleanza dei progressisti dei socialisti democratici, in cui rientra il PD e in particolare rientra anche il Presidente del Parlamento Europeo Sassoli, che questo è uno dei ganci con cui inizieremo la nostra rassegna stampa. Ecco, prima di cominciare la nostra rassegna stampa ci sentiamo qualche minuto di musica. Delle case Abbiamo resistito per questo lungo inverno. La fame, la neve, è stato l'inferno. Compagno di Timoshenko, ricorda che è caduto per la bandiera rossa, per il proletariato. Bene, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, siete in compagnia con Vallun, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, e siete con una delle consuete, anche se mancava da un pochino, delle nostre consuete rassegne stampe. Da quanto mancava la nostra puntata sulla rassegna stampa? Secondo me mancava dal 25 aprile e... Al 25 aprile, non solo emotivamente, ma anche a un articolo che avevamo letto il 25 aprile, ci rimettiamo. E partiamo subito andando a mettere le mani in un numero di Left. Left è una rivista che, devo dire, ultimamente sto leggendo parecchio. Non è pubblicità, però devo dire che fa dei numeri che sono piuttosto interessanti e abbastanza originali per il panorama della stampa da edicola italiana. Left ha dedicato la copertina del numero 40 della settimana del 4 ottobre al 10 ottobre del 2019 proprio alla tematica della risoluzione, con un titolo molto chiaro: il rosso non è il nero. Noi adesso ci andiamo a leggere un contributo di Roberto Musacchio, che si intitola Caro Sassoli, c'è differenza, che è una lettera che questo ex europarlamentare ha inviato, diciamo, al presidente del Parlamento europeo Sassoli. Sì, veramente questa lettera aperta ci ricorda anche un'altra cosa che onestamente io non mi ricordavo, non sapevo, perché correva l'anno 2005 e c'è stata nel 2005, sempre da parte del Parlamento europeo, un'altra risoluzione che... riguarda sempre la memoria, la storia dell'Europa occidentale e orientale, ma con un distinguo molto importante rispetto a questa, cioè il fatto che si ringrazia l'URSS per il contributo dato alla sconfitta del nazismo. Quindi questa è un po' di... direi che è completamente diversa. Roberto Musacchio poi ci dice questa cosa. Infatti, la precedente risoluzione, quella del 2005, è anch'essa molto netta nella condanna dello stalinismo, ma evita l'equiparazione tra nazismo e comunismo, che vengono invece ora proposte. Mi permetto, continua Musacchio, qualche altra considerazione. Già nel 2005 la discussione non fu facile. C'era una situazione nuova data dal processo di ingresso di nuovi paesi, con le loro storie e le loro memorie, per certi versi profondamente tragiche e dolorose. Misurarsi con la storia, con la S maiuscola, per un'istituzione è molto delicato e anche discutibile. Il fatto di stare in un'istituzione come l'Europarlamento, che partecipa ad un processo di fatto costituente, richiede ancor più attenzione e sensibilità. E vi leggo l'ultimo estratto. La mia idea è che la lotta contro il nazifascismo abbia fondato l'Europa democratica e sociale, salvandola dalla distruzione. Il mio rifiuto di accomunare il nazismo a qualsiasi altro evento storico è il rifiuto di attenuare la sua dimensione unica per orrore del pensiero e dell'azione. La mia condanna dello stalinismo, delle forme assunte dal socialismo reale, è chiara e netta. Sono per chiamare ciascuna cosa con il suo nome, evitando sovrapposizioni che in realtà distorcono la comprensione. Bene, parole decisamente molto chiare e ci sono sembrate decisamente condivisibili, e che soprattutto hanno il merito di entrare in una questione, oltre a far riferimento alla risoluzione del 2005, quella che è la risoluzione del Parlamento europeo sul 60° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale in Europa, quindi l'8 maggio del 1945, quindi una risoluzione del maggio del 2005. L'articolo di Roberto Musacchio ha il merito di entrare in una questione che è molto importante, che è quella dei paesi, i nuovi paesi europei, fra virgolette, i paesi che sono entrati nell'Unione Europea dopo aver attraversato la dura esperienza del socialismo reale e del comunismo di Stato. Infatti, a proposito di questo, tenteremo in questo mese, che ricordiamo che è anche il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino, tenteremo con Frey e Alessia di fare un excursus su quello che loro quest'estate hanno visto sulla Polonia. Quindi poi ci entreremo molto meglio. Assolutamente, assolutamente. Anche se per il momento di Polonia, proprio della Polonia in particolare, fa riferimento Claudio Vercelli, firma del manifesto, che proprio sul manifesto del mercoledì 25 settembre 2019 metteva in discussione questo tipo di la risoluzione che era stata fatta, ragionando su su una questione molto particolare. Questa risoluzione parla non agli storici, non parla al mondo della memoria, perché dice lui la memoria purtroppo è un qualcosa di molto complesso, e la storia è un qualcosa di molto complesso, scherzare fra due ponti è molto rischioso, e soprattutto in alcuni paesi che cercano di ricostruire una propria memoria ai danni della storia. Spero che abbiate seguito il gioco di parole. Soprattutto quando questi partiti, perché di partiti si tratta, partiti di governo, Claudio Vercelli fa riferimento proprio alla Polonia, in cui è stato riconfermato proprio in questi giorni il partito di destra al potere, che è arrivato addirittura a mettere in discussione il ruolo di Lech Walesa, additandolo come comunista, perché è rappresentante di un movimento che metteva in discussione quell'ordine liberale, neoliberale, che ha prodotto lo stato presente delle cose. Per cui il problema di dice Claudio Vercelli, è proprio questo: ragionare a partire dal presente, in cui si viene dipinto un pensiero unico sul passato, che in realtà è un po' più sfumato. Comunque l'articolo di Claudio Vercelli si intitola La banalizzazione della memoria, a proposito della risoluzione del Parlamento Europeo, ed era uscito il mercoledì 25 settembre su Il Manifesto. Adesso andiamo un attimo in musica. Andiamo in pausa e ci ascoltiamo qualcos'altro dalla nostra antologia di canzoni. Tomber une amour-moi à ceux. Bene, siete sempre su Vallun, in onda il sabato pomeriggio alle 14 su i 103.1 FM di Radio Città Fujiko e disponibile a partire dal lunedì sul nostro sito www.radiovallun.info per il podcast. Allora, proseguiamo nel nostro percorso di letture che stiamo facendo attorno alla risoluzione del Parlamento europeo dedicato alla memoria, ma che poi abbiamo visto cosa c'è dentro questa memoria, che è un qualcosa di molto complesso e di cui vedremo. Entriamo però adesso a dare la parola veramente agli storici. Per dare la parola agli storici riprendiamo il numero di Left, in cui c'è anche un bellissimo articolo di Checchino Antonini, vecchia firma di Liberazione, quando esisteva, in cui dà la voce a degli storici. Ma ci sentiamo di segnalarvi in trasmissione, e poi lo troverete direttamente anche sulla nostra pagina internet, sul nostro sito, nella rubrica, un bellissimo articolo che è uscito su un sito che ci sta molto simpatico, La Storia e le Storie, del Friuli Occidentale, un sito di storici pordenonensi, come si pronuncia. Il titolo è La memoria prêt-à-porter, nella risoluzione del Parlamento europeo del 19 settembre 2019 sull'importanza della memoria europea e per il futuro. www.storiapn.it e trovate una ripubblicazione, una ricostruzione del dibattito e una serie di voci molto interessanti come Maria Grazia Meriggi, Ida Domignani del Manifesto, che ha scritto un contributo per l'Internazionale, Luca Telese, Dimenticabile, il comunicato dell'AMPI e anche il comunicato dell'Associazione Italiana Combattenti Antifascisti di Spagna, l'AICVAS. Ma adesso torniamo al nostro articolo. Sì, ecco, finalmente noi parliamo di che cosa pensano gli storici, perché in questo gran parlare di storia poi chi va a interrogare chi i libri li ha studiati e con ogni probabilità li ha scritti non è un'operazione che forse non a tutti viene in mente. Ecco, a Left per fortuna è venuto in mente. Vi citiamo, l'articolo è molto lungo, ma vi citiamo tre contributi che ci sono piaciuti particolarmente. Uno di questi è quello di Eros Francescangeli, che è uno storico che salutiamo e che è tra i fondatori della rivista Zapruder. Francescangeli ci dice: la risoluzione cancella non solo il ruolo dell'URSS nella guerra e dei comunisti nella resistenza, ma rimuove la storia dei rapporti tra le potenze occidentali e il Terzo Reich. Sorvola sul passato coloniale e imperialista delle grandi democrazie, tra virgolette, e dimentica la disinvoltura a guerra finita nei rapporti con la Spagna franchista e i colonnelli greci. Continua ancora Francescangeli, e questo è un punto che ci trova molto d'accordo, questo del colonialismo, dell'imperialismo e del ruolo che davvero, ma e non sono invenzioni, ci sono documenti, ci sono fonti, è stato studiatissimo il ruolo che hanno avuto le potenze occidentali come la Francia e la Gran Bretagna e poi l'America nel far scoppiare la Seconda Guerra Mondiale, citando una su tutti e la risoluzione all'epoca nel 38 di Monaco, in cui si dava manforte a Hitler per invadere la regione dei Sudeti. Ecco, questo è uno degli episodi che ha scatenato, perché come ricordiamo sempre noi la guerra non si scatena con un episodio, ma sono varie concatenazioni, vari episodi che portano poi a qualcosa di grande. Comunque Francescangeli continua. Ecco, sì, Francescangeli continua con l'ambiguità del concetto di totalitarismo, una categoria citata una quarantina di volte nel testo, ma tutt'altro che neutra e ancora lontana dall'essere condivisa nella comunità scientifica. Un'operazione che capovolge il metodo scientifico perché isola dei fattori, ad esempio il partito unico e la pianificazione dell'economia, con l'intento di marcarne la negatività. Appunto, quali sono di queste esperienze che si sono poste al di fuori dei modelli di liberal democratici. Senza voler ridimensionare la portata degli eccidi di massa compiuti da Stalin, si resta tuttavia perplessi di fronte all'utilizzo unidirezionale di tale dinamiche. Al contrario, per il bombardamento, ecco, questo è un altro buon esempio, per il bombardamento di Hiroshima e Nagasaki, dove le vittime sono 200.000, si ricorre a categorie interpretative che, correttamente, non prescindono dal contesto della guerra. Sì, questo direi che Francescangeli, come sempre, è decisamente puntuale e entra nel discorso ponendo l'attenzione su un concetto che oramai viene dato per assodato come quello di totalitarismo, che però non è un concetto neutro. Scusa Olga, prego. No, certo. Io concludevo con Portelli, con Alessandro Portelli, che è uno dei nostri storici preferiti, che conclude l'articolo e ne leggiamo un pezzettino, chiaramente perché non possiamo leggere tutto. Portelli ci dice: la logica di operazioni come la risoluzione UE è a ipostatizzare la storia, cioè a crederne di poterne arrestare il fluire, che è complesso e plurale, per catturare finalmente il momento in cui essa sembra offrirci lezioni chiare. Non è comunque compito delle istituzioni politiche, riprende Portelli, dettare l'interpretazione della storia. Al massimo lo fanno gli storici, aggiungiamo noi. Auspicabilmente. Al massimo. E non si decide con un atto politico che cosa è vero e che cosa non è vero. Però non è del tutto vero che la storia la scrivono solo i vincitori. Ai vinti non resta altro che continuare a raccontare, visto che non hanno il potere di fare altro. C'è una battaglia sull'uso politico della storia, perché storia e memoria appartengono al presente. Il modo in cui noi ricordiamo il passato è decisivo, e di questo anche noi facciamo una bandiera, è decisivo per come ci orientiamo nel presente. Poi ci sono racconti che non corrispondono ai fatti, ma il racconto stesso è un fatto. Sappiamo benissimo che non è vero che i nazisti ordinarono ai partigiani di presentarsi dopo via Rasella, ma sappiamo anche che un sacco di gente ci crede. Portelli è l'autore di un bellissimo libro su via Rasella, che ci racconta proprio quei momenti prima e dopo in questa storia complicatissima che poi passò la storia come l'eccidio di via Rasella. Siamo a Roma. E nelle prossime settimane, piccola parentesi, sì, a Casalecchio ne verrà data un'interpretazione da Ascanio Celestini a teatro. Piccola parentesi. E Portelli riprende: il senso del racconto deriva proprio dal fatto che è sbagliato. La risoluzione europea è falsa, ma anche vera, nel senso che è veramente accaduta. In Ungheria hanno buttato giù il monumento di Nagy perché era comunista. In questo senso, un racconto sbagliato, e questo poi lo viviamo sulla nostra pelle, produce effetti reali. Bene, come vedete, noi siamo arrivati al fondo della nostra rassegna stampa. Vi abbiamo dato un piccolo assaggio di una serie di pubblicazioni che ci sono state in queste settimane, di buona qualità, diverse non di buona qualità, però noi abbiamo cercato di selezionare per voi, che siete all'ascolto, dei pezzi che ci hanno colpito molto. È una, quella che vi abbiamo dato, naturalmente, è una lettura di parte, come sempre deve essere una lettura della storia, o sempre deve essere, è impossibile che non lo sia. È agghiacciante, questo mi ha, ho trovato veramente molto lucide le parole di Portelli, pensare che esista una storia che sia al di sopra di queste cose, cioè la storia che ci propone, la versione della storia proposta dall'Unione Europea è una storia di parte. Forse anche un po' più pericolosa della nostra storia di parte, però è una storia di parte, come tale dobbiamo continuare a interpretarla e a raccontarla. Noi vi diamo appuntamento alle prossime puntate, che saranno molto sulla falsariga di questa tematica. Metteremo le mani nell'89, in questo anniversario molto grosso, con altre due puntate. Non potevamo fare altrimenti. Assolutamente, però cercheremo di interrogarci su quanto il peso di questo anniversario, il peso dell'anniversario della seconda dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, già ci ha fatto dire molto, ma sono anniversari pesanti perché sono in un periodo storico particolare. Esatto. Beh, Frey mi ha tolto le parole di bocca, quindi a me non resta che rimandarvi a sabato prossimo, anzi rimandarvi a lunedì, quando uscirà il nostro podcast. E buon pomeriggio da Balloon, da Olga e Frey. Ciao!